innamorato di questa città, l'ha veramente amata dal primo giorno in cui è arrivato, bambino, ragazzino molto giovane, senza nulla, e soprattutto erano apolidi, per cui non avendo nazionalità non gli era permesso fare nulla. Ha imparato l'italiano male, non l'ha mai poi imparato per tutta la vita, e ha cominciato da molto piccolo, dopo aver fatto il partigiano, dopo essere stato anche a lungo a San Vittore, ha cominciato molto giovane ad organizzare delle cose. Aveva secondo me una mente organizzativa abilissima, e questo, immagino, allora gli veniva subito riconosciuto dalla gente con cui entrava in contatto. Leo Vechta cominciava così a fare l'impresario teatrale, a organizzare spettacoli. Nel 1965 la grande idea, portare i Beatles a Milano. I semi sconosciuti Beatles. Aveva organizzato prima Frank Sinatra, Sammy Davis, Ella Fitzgerald, una serie di cose, magari 2 o 3 anni prima di quando questi poi diventavano veramente famosi, Circhi di Mosca, i canti e danze dell'armata sovietica. A un certo momento aveva sentito parlare di questi 4 giovanotti ed era, altri impresari italiani avevano cercato di organizzarlo, ma lui era entrato in contatto con Brian Epstein attraverso un comune amico americano, e non so se per la religione, non so perché, se mio padre era particolarmente abile, era riuscito ad avere il contratto. Il concerto è andato molto bene, mio padre ha guadagnato anche moltissimo, ma loro veramente famosi sono diventati l'anno dopo. Io ho sempre pensato che lui avesse un fiuto fantastico. Signori, vi presentiamo i Beatles. Una delle cose più divertenti che mio padre raccontava sempre è che lui aveva proposto in Rai una ripresa gratuita del concerto, e la Rai gli rispose di no, perché l'anno dopo questi sarebbero stati assolutamente dimenticati. Se i Beatles hanno fatto storia, questo filmato in Super 8 ormai oltraggiato dal tempo va osservato come un prezioso documento. È l'unico che testimoni, sia pure con i limiti inevitabili della ripresa amatoriale, le performance musicali italiane del gruppo di Liverpool. Dopo il 1965, infatti, i Beatles non sarebbero più tornati nel nostro paese e il privilegio di ascoltarli dal vivo sarebbe rimasto riservato a pochi. Non solo concerti, però. Leo Vechta aprì il suo teatro, il Ciak. Lui l'ha visto e si è innamorato di questo spazio brutto, periferico e con un palcoscenico veramente scomodo, ma aveva deciso che quello spazio sarebbe stato suo. E nel 77, dopo molte discussioni, dopo molti pensieri, non avevamo tanti soldi e tutti venivano investiti lì, il Ciak è stato aperto, e dal secondo giorno di programmazione il Ciak è stato un successo ed è durato per 20 anni. Voglio dire, al Ciak hanno debuttato quelli che poi sono diventati veramente, adesso non più i nuovi comici, allora si chiamavano i nuovi comici, ma sono Paolo Rossi, Lella Costa, Alessandro Bergonzoni, Beppe Grillo, La Smorfia, Zuzzurro e Gaspari, veramente tutti quelli che poi hanno fatto la storia della comicità in Italia di allora e di adesso, perché Aldo Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio. Rimaniamo nel mondo dello spettacolo con la cronaca confortante di un lieto evento cinematografico. A Milano si è inaugurato un nuovo cinema, si chiama Ciak, e naturalmente è dotato di attrezzature tecniche d'avanguardia e di una perfetta tenuta acustica. Patrizia ora gestisce uno dei più noti uffici stampa del cinema italiano. L'attuale direttore del Ciak, Gianmario Longoni, ha lasciato la dicitura fondato da Leo Vechta. Gli anni del vecchio Ciak, però, sono ormai finiti. L'atmosfera che respiravi al Ciak non la puoi più respirare da nessuna parte. Longoni, nel lasciare il nome di mio padre, è stato molto gentile, però una volta era una famiglia che gestiva il teatro, adesso è una società. Veramente sentivi la famiglia che gestiva. Io stavo alla cassa, mia madre anche, avevamo un cane che partecipava alle nostre iniziative, mia sorella gestiva il bar, mio padre, nonostante fosse malato, era sempre presente, e c'era un'atmosfera con gli attori veramente amichevole. Litigavamo anche spesso con loro, però facevano parte tutti della nostra famiglia. Questo secondo me non si può più riproporre, proprio sono cambiati i tempi. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Su radio24.it trovate tutte le registrazioni delle nostre puntate. Radio 24 Italia in Controluce su Facebook. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.